Allora, stasera concludiamo quel mini ciclo di tre incontri organizzati a partire da tre libri che hanno diversi caratteri comuni. Innanzitutto, il fatto di essere stati scritti per cercare di affrontare sul piano della critica l'emergenza cosiddetta coronavirus e di essere stati scritti all'interno di quello che una volta si chiamava movimento, anche se oggi non si muove granché, comunque insomma il nostro giro, quello che Oreste chiama la compagneria and co, o comunque in riferimento a questi ambienti. Quello di stasera è il libro prodotto e curato proprio dalla Calusca. Vi dico due parole su come è nato. Erano i giorni del confinamento. In cortile, chi faticava a stare in casa da solo, chi voleva cercare di organizzare qualcosa, chi aveva bisogno e necessità di mantenere il contatto, passava. Tra chi passava c'era una giovane compagna che era venuta qui qualche anno, 2 anni fa, a preparare l'esame di maturità. Traduci sto pezzo. La prima parte di un testo che Philippe Bourinet stava facendo comparire sul suo blog Pantopolis, un blog di teoria politica, secondo me molto, molto interessante. E quindi questo pezzo viene tradotto via via che usciva. E, siccome piaceva a chi ci stava lavorando sopra, lo si fa arrivare nelle mani di altri compagni, sempre del giro intorno alla Calusca, perché la ratio di questo libro è, per come poi alla fine è uscito, è di raccogliere contributi di situazioni collettive o individuali che nel corso degli anni e ancora oggi sono interni alla Calusco, perché fanno le riunioni qui, come è il centro di documentazione contro la guerra, o perché frequentano questo posto da tanti anni e sono sempre stati in un rapporto di discussione, di fraternità, o perché sono stati con noi nelle lotte, in tante situazioni di contrasto politico e sociale, come i compagni di Trento e Rovereto, o come lo stesso Bourinet, perché amico da tanti anni di Primo, tant'è che uno dei suoi ultimi libri è dedicato a Primo Moroni. Quindi questa bozza di traduzione la facciamo circolare, piace, e quindi invitiamo queste diverse situazioni a collaborare a questa pubblicazione. Quindi ai compagni di Rompere le Righe di Trento scrivono un pezzo su tecnologia e razzismo, i compagni del centro di documentazione rimettono a posto un pezzo che era già apparso e aveva avuto già una certa circolazione in rete, Visconte le sue riflessioni sull'economia di guerra e quindi insomma, il libro prende forma. La traduzione del testo di Bourinet, che è il pezzo più organico, anche quantitativamente più rilevante, viene integrata con delle note dei curatori che sono, diversamente da altre volte, non semplicemente note bibliografiche, ma sono delle aperture ulteriori di discorso, di analisi, perché il testo in questione cerca di dare conto su un corso storico ampio dei rapporti tra sviluppo dell'economia mercantile, guerre ed epidemie. In questo sviluppo sono quindi tanti i motivi, i temi accennati che vengono, si cerca di sviluppare ulteriormente, chiaramente sempre in una maniera che non può essere esaustiva, ma che insomma, implementano, come si dice oggi, il discorso. Il pezzo, appunto, che poi è diventato sottotitolo del libro, appunto, cerca di dare conto di questo intreccio di questioni, di motivi e di legami su di una scala storica ampia fino ad arrivare al presente. In questo senso risponde a suo modo all'esigenza che è stata al centro anche della presentazione scorsa, la presentazione di l'epidemia delle emergenze, no? Libro in cui uno dei curatori, Sandro Moiso, ha inteso mettere in fila quelle che sono nella rappresentazione corrente delle emergenze slegate una dall'altra per trovare i nessi e per cercare di stare al livello della complessità della crisi nei suoi vari aspetti, nelle sue varie stratificazioni sanitarie, economiche, sociali, di controllo, di comando e così via. Ecco, in questo senso l'approccio è molto simile, pur essendo dei lavori che sono nati indipendentemente l'uno dall'altro, non però in maniera slegata, tant'è che al lavoro di Sandro Moiso abbiamo fatto riferimento anche noi, in particolar modo in quella parte dei suoi testi in cui lui problematizza la questione delle grandi epidemie come occasioni storico-sociali per ridefinire i rapporti di dominio e di classe, in un senso o nell'altro. Quindi vengono fatti degli esempi che sono un po' le due polarità possibili, cioè le conseguenze catastrofiche sul piano sociale dell'organizzazione al punto di destrutturare completamente quelle società, quali furono gli effetti sanitari della conquista, oltre che l'uso della violenza, l'introduzione della servitù, dello schiavismo, eccetera. Però proprio il lato sanitario come uno degli elementi di distruzione delle società amerindie, quindi un esempio estremamente tragico e negativo. Dall'altra parte gli effetti in buona sostanza positivi che sul piano dei rapporti di classe ebbe la peste nera nella società europea, perché vari studi hanno dimostrato come in conseguenza di questa epidemia e della mortalità che si realizzò in quegli anni il rapporto di forza volse a favore o comunque migliorò nei suoi termini rispetto a prima per gli strati bassi della società, per i contadini, per gli artigiani, quindi si produssero una serie di movimenti sociali e di rivolte molto importanti. Quindi gli esempi più chiari sono in Italia la rivolta dei Ciompi e in Inghilterra il grande movimento contadino che segnò l'ultimo ventennio del 300 e che poi ebbe anche un lato di grande importanza relativamente alla crisi degli ordinamenti feudali e della Chiesa, quindi con l'istanza di liberazione posta da Wycliffe, il comunismo chiesastico. Questo è un esempio tra i tanti del fatto che i grandi eventi sono sempre sociali, anche gli eventi apparentemente più legati a fattori naturali come sono le malattie e le epidemie, sono incomprensibili al di fuori del loro contesto storico sociale e degli affrontamenti e dei rapporti sociali e di classe che via via si producono. Quindi le epidemie legate allo sviluppo dei commerci, a partire almeno dalla peste nera, che appunto attraverso la via della seta passa dall'estremo oriente in Crimea, dalla Crimea viene portata sulle navi dei genovesi che fuggono dall'assedio di Caffa in Europa, e lì si diffonde con i tempi che aveva il commercio internazionale allora, quindi 3-4 anni, tempi evidentemente molto molto abbreviati. Oggi, con la velocizzazione incredibile e l'aumento quantitativo dei rapporti sia commerciali che proprio del movimento fisico degli umani, ai tempi della proprio ai tempi nostri. E altro fattore di propagazione delle epidemie è evidentemente quello delle guerre, e l'esempio preclaro è quello dell'influenza cosiddetta spagnola, che segnò la fase conclusiva della Prima Guerra Mondiale e i primi anni del primo dopoguerra, e che coinvolse la gran parte della popolazione mondiale. In termini quantitativi ancora oggi non si sa quanti uomini, quante donne, quanti furono i morti. C'è chi dice 40 milioni, c'è chi dice 100 milioni. Fatto sta che ci sono voluti almeno 70 anni perché gli studi storici focalizzassero quel grande evento, che comunque, quale che ne sia stata l'origine geografica, di sicuro fu prodotto nel suo effetto dirompente dalle condizioni sociosanitarie legate alla Prima Guerra Mondiale, alla condizione psicofisica dei soldati al fronte, e soprattutto dal trasferimento delle truppe americane dalla Nord America ai fronti europei, cioè nei campi d'addestramento era già scoppiata l'epidemia. Ciò nonostante, l'amministrazione Wilson decise di far prevalere le ragioni dello Stato e della guerra su qualsiasi altra ragione e considerazione. Quindi i fanti statunitensi portarono in Europa la malattia, che da lì si diffuse e nei due o tre anni successivi coinvolse praticamente tutto il mondo. A tutt'oggi, e anche questo non è un particolare inimportante, si sa grosso modo quali furono gli effetti sulle popolazioni occidentali, ma non si sa quasi niente, se non in termini che fu una grande catastrofe, quali furono gli effetti sulla popolazione indiana o su altre popolazioni dell'estremo oriente, sempre per dire che la vita ha due pesi e due misure a seconda del colore della pelle, dove si è nati e di qual è il rispettivo peso nelle economie. Ecco, un po' questo è il tipo di impostazione che c'è al centro di questo pezzo introduttivo, che chiaramente non ha pretese di alcuna esaustività, ma cerca di porre gli elementi per un'analisi materialistica anche dei fatti sanitari, delle grandi vicende del rapporto tra la salute degli umani e il resto della natura. Questo nella parte dedicata al presente, quindi alla situazione attuale, si basa sul quadro socio-ambientale complessivo, quindi tutti gli effetti del rapporto di dominazione sulla natura, tutte le questioni legate all'alimentazione, tutti gli impatti del vivere sotto l'imperativo economico in termini ecologici, ambientali, di smog e quant'altro. La cosa che caratterizza questo, e su questo concludo questa breve introduzione, che caratterizza questo pezzo è il fatto di rilevare in presa diretta gli effetti complessivi che questa situazione, che coinvolge per la prima volta un numero spropositato di esseri umani, perché si parla di almeno 2,5 miliardi di persone che sono oggetto di politiche sanitarie degli stati legati al coronavirus. Ecco, di legare questa situazione così estesa a un approfondimento ulteriore di un corso di crisi iniziato evidentemente da prima. L'autore è uno di quelli che riconoscono e cercano di prendere la temperatura della crisi dell'economia via via che questa si manifesta e insomma è sotto gli occhi di tutti che un effetto di prima grandezza è proprio sul piano economico. Nonostante le diversità e i vari tentativi di rianimare l'economia, però la situazione è davvero grossa, particolare e insomma significativa, al punto che ci sono una serie di interrogativi su quali potranno essere gli scenari a venire, quali le politiche, tant'è che nel libro uno degli interventi è quello di Visconti, che cerca di ragionare intorno all'economia di guerra. Ecco, il riferimento alla guerra è ricorso in molte analisi, in molte descrizioni di quello che è avvenuto. Si parte dalla terminologia, dal linguaggio usato dai governi e dai media per parlare del virus, di questa emergenza, ma c'è un fondamento propriamente economico, di politiche economiche, che sta al centro dell'abbozzo di analisi di Visconti, che adesso sarà lui a esporre. Ecco, stasera abbiamo invitato a dialogare con noi anche Andrea Crosignani, che tutti conoscete, medico al San Paolo e animatore insieme ad altri compagni dell'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti. Non so se vuoi parlare prima tu, se ti attacchi tu. Tra l'altro tutte e due hanno in comune una professione medica, quindi c'è anche la possibilità di dialogare. Tutte e due hanno ragionato parecchio sulla sanità pubblica, sulla medicina del territorio, su come funziona questa macchina della salute e della malattia. Quindi vedetevelo un po' voi, decidete autonomamente. Ti ha dato il punto. Vabbè, allora comincio io. Funziona. Dunque, già Roberto ha parlato dell'articolo di Bourrinet che evidenzia come le epidemie sono state nel corso della storia segnali di cambiamenti storici o di modo di produzione, come diremmo noi, importantissimi. Già l'impero romano crollò, diciamo, crollò, ma poi arrivarono i cosiddetti barbari, che non erano poi così barbari. Comunque, con le pesti di Giustiniano del più o meno 400-500 d.C., la peste del 300 fu il segnale dell'inizio della fine del feudalesimo e del sviluppo invece della borghesia, di una nuova classe ascendente. E queste epidemie comunque seguono ancora di più adesso i percorsi commerciali, cioè delle merci. Come diceva anche Roberto, la peste del 300 si diffuse attraverso i commerci dei genovesi, che veniva dall'Oriente, dai mongoli, attraverso l'assedio di una città genovese in Crimea, poi arrivò fino alla Norvegia, ci mise 3 anni. Adesso ci mette molto meno, ovviamente. Oltre che ai commerci, la diffusione dell'epidemia è legata alle guerre, l'esempio della spagnola che abbiamo visto, di cui parlava anche Roberto, è significativo. Quindi dal capitalismo commerciale al capitalismo di oggi, diciamo in una fase di declino, a mio parere, di declino storico, possiamo porci una domanda: questa epidemia segna l'inizio della fine del capitalismo? Cioè, è una domanda complessa, però comincio col porla così alla discussione, perché ci sono altri segnali, non c'è solo questo. La finanza, cioè, adesso non è il caso di parlare di tutto. Invece veniamo alla questione della guerra in particolare. Anche Bourrinet parla, poi nel corso del suo intervento, della guerra permanente contro la natura che il capitalismo, dai suoi primordi, dice lui, ha posto in essere e che adesso è arrivata negli ultimi 40 anni. Lui fa proprio una descrizione da più o meno dagli anni 80 ad adesso, ha raggiunto dei livelli di distruzione incompatibili con addirittura col proseguimento della vita o della specie umana su questo pianeta. È una prospettiva indubbiamente catastrofica, catastrofista. Adesso questo è anche un argomento di discussione. Comunque, questa guerra permanente contro la natura, nell'Ottocento, già quando il capitale, diciamo, si è imposto a livello mondiale, in corso sicuramente già da allora, un noto industriale, Say, che era imprenditore ed anche economista, all'epoca riteneva che impossessarsi delle ricchezze naturali era gratuito e inesauribile, secondo lui. dice, sono inesauribili perché altrimenti non le otterremmo gratuitamente. Questa è la concezione della borghesia di allora e penso che ancora adesso la pensino così. Non la pensava così Engels, bisogna dire. Engels nel 1882, cito sempre da Bourinet, nella sua Dialettica della natura dice: non aduliamoci troppo tuttavia per la nostra vittoria umana sulla natura. La natura si vendica di ogni nostra vittoria. Ad ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura come un conquistatore domina un popolo straniero soggiogato, che non la dominiamo come chi è estraneo ad essa, ma che noi le apparteniamo carne e sangue, cervello, e viviamo nel suo grembo, dice sempre Engels. Poi dice la sua, diciamo, tutto il nostro dominio sulla natura consiste nella capacità che ci eleva al di sopra di altre creature di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo appropriato. Adesso questo è da discutere, il modo appropriato, comunque non è il momento, richiede... Comunque, questa guerra permanente contro la natura di cui parla Bourinet non è la sola guerra permanente di cui si parla questa sera. Questo termine guerra permanente venne già impiegato da Paul Mattick in un articolo, un suo articolo del 1940. 1940 era l'inizio della guerra, Seconda Guerra Mondiale. Cioè, dall'invasione della Polonia nel primo settembre del 39 da parte dei nazisti fino all'invasione della Francia, che poi avvenne nel maggio, ci fu un periodo di diversi mesi dove non ci furono quasi nessuna operazione bellica. C'era tutta una preparazione, ma nessuno osava ancora prendere l'iniziativa. Infatti si parlava allora di strana guerra, qualcuno l'ha chiamata così. E in quel periodo appunto di incertezza, Mattick scrive questo articolo in cui dice che la guerra permanente dipende, è una conseguenza anzi della crisi economica permanente o della depressione economica permanente. E si può andare a trovare questo articolo, si legge. Lui ritiene che l'andamento ciclico del modo di produzione capitalistico quindi va da lo sviluppo capitalistico, la fase di sviluppo capitalistico accumula delle, noi diremmo saggio di profitto eccetera eccetera, cioè la caduta del saggio di profitto che porta a una depressione, è un andamento ciclico. La guerra fa parte di questo andamento ciclico e sostanzialmente due grandi guerre del Novecento è stato un fattore di risoluzione della crisi capitalistica. Cioè l'elemento distruttivo che porta alla guerra, di distruzione delle forze produttive, produce poi un rilancio dell'economia capitalistica sempre e quindi risolve, così è stato storicamente, ha risolto soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, la famosa Grande Depressione degli anni 30. Mattick ritiene che questo meccanismo non sia, già lo diceva allora, non sia più effettuale. Cioè lui parla appunto di una crisi economica permanente e quindi neanche la guerra sarebbe stata in grado di risolvere questa crisi. Ora, la sua ipotesi, diciamo, non venne verificata immediatamente, perché poi invece la guerra la risolse e ci furono, dopo i 30 anni di grande sviluppo capitalistico, quella che passa come l'età d'oro del capitalismo, dagli anni 40, 50, 60. Però, diciamo, questa intuizione di Mattick, che non era ancora attuale, secondo me andrebbe ripresa, viene ripresa nell'articolo, per descrivere invece la situazione attuale. in cui nessuna, neanche delle potenze economiche oggi, ha la forza di imporsi in una guerra, e quindi parliamo di una guerra reale, e quindi la guerra stessa diventa permanente, come vediamo nei vari scenari che ci sono, cominciato negli anni 2000 dall'Afghanistan all'Iraq, tutto il Medio Oriente, la Libia, eccetera, eccetera, no? Scenari di guerra permanente che, diciamo, l'Occidente, almeno dalla parte nostra, sembrano ancora piuttosto lontani e che non ci coinvolgono direttamente, quando invece sono proprio vicini, perché l'emigrazione, per esempio, dalla Libia è uno delle conseguenze di questa guerra. Quindi l'espressione guerra permanente che Mattick usò nel 40 sembra oggi piuttosto utile per descrivere quello che succede nel mondo a livello delle guerre, diciamo così, semiperiferiche. In effetti l'epidemia che poi si è sviluppata dall'inizio di quest'anno per cause naturali che penso tutti abbiamo letto, cioè della mutazione dei virus, del passaggio dai virus dagli animali, cioè dagli agenti selvaggi ad altri animali, all'uomo, e che in questa mutazione o spillover, come viene chiamata, il virus acquista una maggiore virulenza, è servito per creare nell'Occidente capitalistico, nelle nazioni più avanzate, tra virgolette, capitalistiche, un surrogato di quella che è la guerra permanente, così io penso di poterlo definire. Cioè non è una guerra vera, ma ci sono delle forme di economia di guerra che richiamano, un po' alla lontana, però comunque richiamano, diciamo, una situazione di guerra, prima di tutto nel linguaggio, cioè che viene usato tranquillamente dai vari potenti, eccetera. Cioè siamo in guerra, ci sono gli eroi di guerra, poi sarebbero quelli che lavorano in ospedale, per quanto poi li hanno bastonati dopo. Prima di tutto nel linguaggio, poi nella retorica patriottarda che si è sviluppata nei primi tempi del lockdown, che non è durata molto onestamente, perché gli inni nazionali sui balconi, insomma, dopo un mese uno si era un po' rotto. Quindi, comunque c'è stata anche quella. Poi altri fenomeni che possono far pensare a un'economia di guerra sono alcuni fenomeni di riconversione industriale. Sapete bene che durante la guerra l'industria si riconverte per produrre armamenti, da civile a militare. Di riconversione parliamo delle mascherine, disinfettanti per le mani, respiratori, che non venivano più prodotti in Italia, e venivano tutti dalla Cina. Questo, cioè, c'è alcune filiere di produzione globalizzata, fra virgolette, che si erano create negli ultimi 20-30 anni, si sono improvvisamente interrotte, e quindi si è dovuto ricorrere a un minimo di riconversione, anche se poi non è che ha funzionato così tanto. Questo comunque è un elemento. Un altro elemento è la riduzione del consumo interno. Cioè, chiaramente durante una guerra i consumi interni vengono quasi azzerati, perché a parte il mangiare e le medicine, che sono ovviamente necessarie, però per il resto non si compra. Cioè, la gente non compra. Quindi diciamo il consumo interno viene drasticamente ridotto. Questo è un altro elemento. Il che cosa succede? Cosa fa? Libera risparmio, perché chiaramente se la maggior parte delle persone non compra, i soldi vengono risparmiati e vengono messi da qualche parte. Terzo elemento, questo incremento del risparmio suscita gli appetiti della finanza. Classicamente si ricorreva al debito di guerra, cioè era obbligatorio, diventava obbligatorio dare dei propri soldi per sostenere lo sforzo bellico, eccetera, eccetera. Quindi debito di guerra si chiamava. Adesso alcuni settori della destra, più diciamo tipo Fratelli d'Italia o altro, hanno tirato fuori diciamo questa loro opinione che i bond, i titoli di Stato dovevano essere venduti solo ai cittadini italiani, in maniera che il debito rimanesse all'interno della nazione, una forma di nazionalismo anche questa finanziaria. Chiaramente non ha avuto successo, perché la finanza internazionale oggi è qualcosa che sfugge anche agli stati nazionali, non riescono a regolamentarla. Quindi le correnti che prende il denaro vanno in tutt'altra direzione, dove c'è più possibilità di guadagno, eccetera. Quindi il debito di guerra non ha avuto un grande seguito, secondo me. Altri elementi, alcuni aspetti di speculazione sui prezzi. Sappiamo bene che nelle guerre ci furono speculazioni, c'è mercato nero, eccetera, eccetera. Qualcosa c'è stato anche qui, non tantissimo. Tant'è vero che per quanto riguarda le mascherine, il governo aveva istituito un calmiere di 0,50 a mascherina, che poi non è stato osservato un granché. Però la speculazione sui prezzi c'è, chi va a comprare nel supermercato, anche nei grandi supermercati, i prezzi sono aumentati. I ristoranti, bar, eccetera, dicono che hanno perso soldi, questo è da vedere. Comunque hanno approfittato per innalzare i prezzi al consumo. Quindi aumento dei prezzi, si riduce ancora il consumo e c'è un circolo non virtuoso che va a ridurre ancora di più il consumo interno. Questi sono alcuni aspetti dell'economia di guerra che certamente sono molto lontani da un'economia di guerra vera e propria, quale si è prodotta nelle guerre, quelle effettivamente guerreggiate del Novecento. Per esempio Michael Roberts, in una sua volantino che ha fatto per Asterios, dice che l'economia di guerra non c'è attualmente. Qual è il segnale di questo? La caduta del prezzo del petrolio, per esempio. Cioè in una vera economia di guerra la produzione va al massimo per produrre ovviamente armamenti. Quindi c'è un impiego della capacità produttiva che prima non era utilizzata al massimo. Quindi l'aumento del petrolio, del gas, di tutte le fonti energetiche ovviamente fa parte di questa economia di guerra. La Germania nazista mirava ai pozzi di petrolio della Romania e del Caucaso, per questo fu uno degli elementi che portarono la guerra verso est piuttosto che verso ovest. E non solo, ma importava grandi quantità di petrolio dall'allora Standard Oil, oggi si chiama in un altro modo, comunque era sempre di proprietà dei Rockefeller, quindi i Rockefeller non è che guardavano il denaro da dove veniva, basta che arrivava, quindi vendevano il petrolio al nemico tranquillamente, no? Quindi questo elemento, che invece non era assolutamente presente in questa occasione, la produzione è calata grandemente, il prezzo del petrolio ha avuto un crollo, quindi questo va contro quella che sarebbe i canoni dell'economia di guerra. Certo, è una possibilità che esiste sempre, che si vada avanti su questa strada. Secondo me non è automatica, però potrebbe essere una delle evoluzioni della situazione. E quello che vediamo però concretamente è, da una parte, un'accelerazione della crisi capitalistica che già era iniziata almeno dal 2008, dalla crisi finanziaria dei subprime, e quindi disoccupazione, fallimenti di industrie, concentrazione del capitale. I fallimenti riguardano soprattutto la piccola industria o il piccolo commercio. La grande distribuzione è andata alla grande in questo periodo, non parliamo di Amazon, questi, diciamo, e-commerce eccetera, come viene chiamato. Quindi concentrazione capitalistica, aumento del debito pubblico e privato. E oggi tutti fanno affidamento sull'Unione Europea, che dovrebbe dare tutti questi soldi. Se guardiamo la sanità, l'aspetto della sanità di cui poi si parlerà, come verranno impiegati questi, si dice, 37 miliardi dati gratuitamente, cioè senza restituzione dall'Europa? Ma bisogna vedere i progetti, perché se poi vanno a finanziare ancora una volta i grandi ospedali privati o anche pubblici, diciamo, la situazione epidemica andrà avanti, perché almeno per quanto riguarda anche la mia esperienza, lo strumento sanitario che è più efficace nelle epidemie è la medicina del territorio. Quindi parliamo di medicina scolastica, di distretti sanitari, di medicina generale, di medicina del lavoro, di medicina delle residenze assistenziali per anziani, cioè di tutto questo tessuto sanitario che è l'unico che può contrastare l'epidemia nelle sue fasi iniziali, non quando ormai il paziente, che magari è rimasto a casa senza cure, poi arriva all'ospedale ormai in condizioni disastrose, se non in fin di vita. E quindi reparti di terapia intensiva a manetta, ma quella è l'ultima, diciamo, anello di cui bisogna tener conto quando si parla di una forma epidemica. Penso che poi ne parleremo. E quindi, per concludere, la guerra permanente è un aspetto generale della situazione del declino del capitalismo, e che oggi coinvolge certamente tutta la natura. Parla anche, per esempio, Bourinet della questione dell'agroalimentare. Le grandi industrie agroalimentari, da Nestlé a Unilever, anche la nostra Ferrero, tanto per dire, sono alla caccia di terreni coltivabili dappertutto nel mondo. Quindi c'è deforestazione, incendi in Amazzonia, in Patagonia, nell'Asia, cioè deforestazione che poi è uno degli elementi che incrementa anche l'epidemia. Quindi, diciamo, tutti questi aspetti concorrono nello sviluppo di questa epidemia, di cui magari poi parlerà Andrea. Però insomma, l'economia e la questione sanitaria sono fortemente collegati. Dobbiamo tener conto di tutti questi fattori. Va bene. Ma io concordo completamente con la conclusione del compagno, e parto da una riflessione. Cos'è che è mancato in questa fase qua? È mancata la medicina del territorio. Cioè, su questo non c'è dubbio. Perché è mancata la medicina del territorio? Beh, perché in maniera scientifica, in Lombardia più che in altri posti, hanno praticamente demolito tutto ciò

quindi prevedeva la chiusura di questi due ospedali e la creazione di un altro ospedale nuovo, più piccolo, lì in fondo al Parco Teramo, alla Barona. Bene, noi abbiamo creato un comitato che è proprio nato qui all'interno di Conchetta, che poi si svolge in quartiere, soprattutto in Barona. Ecco, un comitato che fin dall'inizio si è opposto a questo progetto qua, perché si è opposto anche che venisse, diciamo, smembrato sia fisicamente che anche fra il personale. E abbiamo avuto ragione, perché se si andava in porto sto progetto, questa emergenza che c'è stata, se non c'erano i due ospedali San Paolo e San Carlo, qui si vedeva malissimo la situazione a Milano. E quindi, cioè, come comitato adesso stiamo lanciando un appello un po' a largo raggio a voler interessarsi di questo problema, per cui vi invito a tenerne in considerazione anche questa roba qui. Vieni, vieni. Microfono pericoloso, gente di contatto. No, niente, io l'unica cosa mi sento di intervenire perché in primis è vero che è un problema di tipo sanitario, però mi sembra che con l'andare del tempo ci sia una medicalizzazione eccessiva della problematica, a scapito degli aspetti più umani, nel senso, io ho, il mio problema è il nodo sul controllo del cittadino a questo punto e la negazione di tutta una serie di libertà, perché se ci hanno detto che il lockdown era necessario e ci stanno ripetendo fino alla nausea che è l'unica che ha salvato l'Italia, eccetera, e io chiaramente eravamo tutti d'accordo in quella fase, che però era anche una fase di terrorismo psicologico. Ci siamo giustamente adattati, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto i bravi, però loro hanno fatto il terrorismo. E era proprio evidente, cioè le immagini delle bare, tutto c'era un aspetto molto carico in questa cosa. E oggi, che siamo appunto in una seconda fase, è vero, no? Secondo me è molto necessaria la riflessione del rapporto tra la salvaguardia della libertà delle persone, no, dell'umanità, e l'aspetto invece del necessario controllo. Allora, loro toppano continuamente, perché quello che fanno, sono specializzati a toppare, e allora per esempio hanno aperto le discoteche perché dietro c'erano i gestori delle discoteche che gli dicevano: oh, io perdo soldi, apri, e loro hanno aperto. Nel frattempo non si sa bene che cosa sia successo, però effettivamente poi la gente che... qualcuno ci è andato, ed è giusto che la gente vada nelle discoteche, però o stabiliamo dei principi ben precisi, delle modalità ben precise anche dei rapporti sociali e nei rapporti, chiamiamoli appunto sociali, perché sono tutti poi rapporti sociali, da quelli all'interno della famiglia che sono più affettivi a quelli più allargati, però dobbiamo studiare, secondo me, ma anche da un punto di vista psicologico, tutta una serie di modalità di prevenzione di diffusioni e però di salvaguardia del dato di incontro sociale e di libertà della persona, perché la persona deve poter uscire, cazzo, e uscire senza il terrore di dire... Io ho conosciuto parecchia gente che ha avuto difficoltà dopo il lockdown a tornare ad uscire, perché hanno tutti paura. E io credo che questo problema della riflessione sulla psicologia, no, del terrorismo che stanno facendo, e invece l'aspetto di vediamo regole certe, cerchiamo di attenerci il più possibile, però, ok, è molto importante. Valeria. Allora, avete dato un quadro preciso, però in Italia ci troviamo su un piano inclinato, e mi rifaccio anche a quanto diceva Pino, sulla militarizzazione del lavoro, perché in Italia abbiamo avuto la legge antisciopero più risalente nel tempo, più sperimentata, che ha preparato il terreno e che non è stata opposta, se non in alcuni pochi casi, come i tranvieri di Milano, che ruppero la precettazione, poi hanno fatto dei passi indietro. Negli ospedali questo non è avvenuto, o è avvenuto poco, negli ospedali e nella sanità, perché la forza lavoro, sia il personale infermieristico e ausiliario, sia i medici, non hanno lottato, non è una critica che faccio alle categorie, ma è una constatazione, non hanno lottato fino in fondo contro le varie leggi finanziarie che dal 2000 in avanti, anche prima volendo, hanno bloccato le assunzioni, ridotto gli stipendi, aziendalizzato, bla bla bla. E quindi eravamo già pronti su questo piano inclinato, che non riguarda solo l'organizzazione sanitaria, ma riguarda l'organizzazione sociale, a subire quella che è diventata una dittatura sanitaria militare, sanitaria poliziesca, e che ha stravolto ciò che era già stato stravolto da anni. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si è solo dato atto che in Italia il Parlamento non esiste, che si è andati avanti per decretazione d'urgenza, che nelle leggi, che nei decreti d'urgenza che ci sono da 40 anni hanno infilato come delle supposte delle riforme epocali, con le leggi di conversione ti mettevano un testo unico, per esempio sul pubblico impiego, e veniva approvato con la fiducia, come le leggi finanziarie, che sono l'unica legge di cui discute il Parlamento. Il Parlamento è assolutamente inutile per la borghesia oggi. Di conseguenza ci siamo trovati e ci troviamo al colmo di questo piano inclinato. Entriamo in una nuova fase. È stato messo giustamente in luce, uno, la crisi del capitalismo, che non è di oggi e che viene aggravata. Due, la crisi della sanità pubblica nel quadro di della sanità, non della sanità pubblica, nel quadro di questa crisi. Tre, la crisi economica e sociale con disoccupazione e quant'altro. E si dice, come uscire da questa situazione? Si esce da questa situazione a una svolta epocale se la classe sfruttata ha la possibilità di organizzarsi politicamente. E solo l'organizzazione politica, non solo l'organizzazione sindacale, non solo la difesa immediata degli interessi economici, solo l'organizzazione politica può opporre al potere dittatoriale, autoritario, terroristico dello Stato borghese attuale, che è lo Stato della finanza, di procedere nella sua politica. Prendiamo per esempio i cosiddetti aiuti europei, 209 miliardi. In realtà sono 209 miliardi di debito pubblico. E chi pagherà questo debito pubblico? Se andiamo nella sanità e nella scuola, avremo non i super ticket, ma ben di più. Poi avremo di più, perché rifaranno la sanità a modo loro. Per il potere attuale, il pubblico, è soltanto il controllo sul fornitore di servizi. Per cui il gestore, di cui parlava Pino, in realtà che cazzo fa? Fa questo. Va dal vecchietto cronico e gli dice: tu ti affidi a me, io risparmio sulla tua cura rispetto a quello che faceva il medico di base, più l'ospedale, più gli esami che dovevi fare, e il mio guadagno è proprio su quel risparmio lì. Cioè viene non teorizzato ma praticato il dare una parte del finanziamento pubblico della sanità, delle nostre tasse, a un soggetto privato colossale. In questo momento sono i grandi ospedali, le grandi finanziarie ospedaliere, per esempio la COS, che sta passando dalla RSA, dalle residenze sanitarie, a questa situazione. Per cui opporsi, per opporsi a questi piani peggiorativi, che poi si inseriscono in un'economia di guerra, in una guerra vera e propria, ci vuole una forza politica. Senza forza politica non c'è nessuna svolta. Abbiamo un avversario, un nemico estremamente debole, nel senso che il suo sistema è marcio, corrotto, eccetera. Ma se non abbiamo un'organizzazione politica che affronti non solo la pagnotta quotidiana, ma un problema come quello della salute, che non è un problema di welfare, è un problema di sistema, è un problema di vita, è un problema che riguarda la vita delle classi, perché da una parte si viene curati bene e si guarisce, dall'altra parte si viene portati alla morte, perché la logica attuale è questa: il gestore, risparmiando, ti porta piano piano o veloce veloce alla morte. Quindi per attuare la svolta dobbiamo parlare di politica, di lotta al potere, di lotta per il potere. Io ovviamente da comunista sono per un'organizzazione politica partitica e non voglio fare polemiche inutili. Ciò che mi interessa è di vedere se possiamo creare un fronte su ogni questione che raggruppi forze, intelligenze, virgolette, competenze, perché oggi c'è anche un altro problema: non abbiamo dei grandi compagni medici che si dicono, ne abbiamo troppo pochi rispetto a quello, ai problemi colossali della società malata di oggi. Abbiamo troppo pochi medici, troppi pochi scienziati schierati, militanti. Quindi è questo che volevo mettere in luce in questo momento. Qualcuno vuole dialogare con... Vai. No, vabbè, due cose rispetto a quelle che erano quello che erano gli argomenti che ha sottolineato Pino prima e anche il compagno che ha parlato adesso. Ovviamente all'interno di un intervento non ci poteva stare tutto, anzi è stato utile a un certo punto avere anche uno stimolo esterno. Senz'altro la cosa scandalosa è il tipo di asservimento che il dipendente deve avere nella struttura e nelle strutture pubbliche, e il livello di ricattabilità. È vero che come dipendente c'è una norma, e quella che ci hanno sottolineato subito anche al San Paolo: non parlate con la stampa se non dietro autorizzazione. Ma questo è una situazione militaresca che non ha che è scandaloso e brutto, e concordo che sia assurdo che non ci sia stato mai nessuno averlo combattuto, come concordo che non ci sia mai stata non ci siano mai state forze importanti a cercare di mettere i bastoni tra le ruote a quello che è stato il progetto che da metà degli anni 90, alla fine degli anni 90, prima con Formigoni e poi con Maroni, la destra e la Lega ha fatto, per esempio, in Lombardia, sfasciando tutto quello che era possibile sfasciare. Concordo col fatto, per esempio, che serve una posizione, servono delle posizioni politiche, che aggreghino, perché, per esempio, noi parliamo di accesso, abbiamo parlato di accesso alle cure, ma la salute non è solo accesso alle cure. La salute è avere una casa, è avere uno stipendio degno, è avere non rischiare di farsi male sul posto di lavoro, è non vivere un'attività lavorativa con un livello di sfruttamento, avere da mangiare. E per esempio un altro segnale molto importante sono state le situazioni che secondo me che hanno creato solidarietà durante la pandemia, questi centri di solidarietà, alcuni sono chiamati brigate, altri in modo diverso, ma che sono state un momento importante di aggregazione, perché purtroppo la presa di posizione politica necessita di un'aggregazione, tra sfruttati, tra persone in difficoltà, e a volte il mutuo aiuto può essere un modo per... Però concordo pienamente con tutto quello che è stato detto, e concordo anche col fatto che purtroppo avere lasciato le strade solo in mano alla polizia, carabinieri, forze dell'ordine è stata una situazione devastante. In quei giorni lì abbiamo visto delle cose allucinanti, i pestaggi dei compagni che mettevano dei fiori sulle lapidi dei partigiani in via Padova, compagni pestati, portati in questura e ovviamente denunciati per resistenza pubblico ufficiale, e tutto quello che è successo poi dai tentativi di eliminare ogni tipo di dissenso con multe da 500 euro per partecipazione a manifestazioni e cose del genere. Certo, anche questo è un aspetto che è molto importante sottolineare, anche perché, ripeto, la salute non è solo l'accesso alle cure, ci siamo focalizzati su una cosa, la salute è anche avere un tetto e, per esempio, e in questo senso anche le continue azioni giudiziarie contro compagni che hanno lottato per una vita in maniera legale o illegale, ma qui in maniera giusta per il diritto alla casa, sono un'indicazione di dove va a parare il potere. E per questo che bisogna dare a questi compagni, a queste compagne, secondo me, la massima solidarietà. Anch'io voglio dire due parole a proposito degli ultimi due interventi che giustamente hanno illuminato il piano inclinato su cui siamo nei rapporti di forza con i cattivi, diciamo così. Anche Buriné conclude dicendo: ora la palla sta nel campo del proletariato, dipenderà da come si giocherà questa catastrofe, questa occasione su un lato e sull'altro della barricata. Voglio ricordare solo un passaggio dei mesi scorsi, perché purtroppo si rischia di stemperare tutto in un senso di impotenza e di attesa, come ancora adesso continua. A marzo, i primi di marzo, ci sono stati due fatti eclatanti per l'Italia, limitati ma eclatanti, perché entrambi non si vedevano da 30-40 anni. Sono stati ricordati anche la scorsa volta, cioè quell'ondata di scioperi che nelle fabbriche ha posto con forza la questione della chiusura delle fabbriche stesse, scioperi sostanzialmente privi di tutela sindacale, che si sono però dispiegati in maniera veramente decisa e hanno prodotto degli effetti. Quel poco di chiusure che il governo ha operato, come si discuteva anche là, è stato largamente determinato da questa ondata secca e improvvisa di scioperi. E l'altro fatto, anch'esso che mancava da tanti tanti anni, più o meno lo stesso arco d'anni, è stata la rivolta nelle carceri. I detenuti di San Vittore non salivano sul tetto di San Vittore da 40 anni giusti. Ecco, sono stati due episodi limitati, ma significativi, che hanno segnato in una maniera diversa quei giorni da tutti gli altri, dal prima e dal dopo. C'è stato un momento di sbandamento, di incertezza e di preoccupazione nelle stanze del potere. Lì è stata messa a fuoco la necessità di una stretta repressiva, di un'attenzione preventiva anche nei confronti dell'agire dei compagni, che poi si ritrova ad esempio esplicitamente nella autonarrazione da parte dei carabinieri dell'inchiesta bolognese. No? Lì si parla esplicitamente della necessità di prevenire l'azione a sostegno dei focolai di rivolta, dell'insoddisfazione sociale, della crisi della tenuta del controllo, che in una situazione come l'attuale può manifestarsi. Il resto sarà nelle cose, sarà nella nostra capacità di organizzarci. E chiaramente non è possibile questa sera affrontare la grossa questione su cosa significhi organizzazione di classe, chi la vede in una maniera, chi la vede in un'altra. Fatto sta che comunque a tutti risulta chiara la necessità di rimettersi insieme, di cercare di fronteggiare l'attacco avversario e quello che l'avversario cercherà di guadagnare da questa occasione, perché appunto la palla si muove da una parte e dall'altra, non è ferma finalmente in movimento, ma le porte sono due. Su tutti i piani dell'azione di lotta e dei saperi, perché giustamente è stato richiamato con decisione l'impegno alla necessità ad avere i saperi dalla nostra parte, in quel rapporto dialogico, dialettico, di costruzione di forza che sappiamo in passato si è manifestato anche a livelli alti, l'esempio di cosa il movimento seppe produrre a proposito di Seveso, della catastrofe ambientale di Seveso, o sulla questione nucleare, ma in generale proprio sul nesso tra saperi e poteri. Oggi è vero, siamo anche su questo piano deboli, ma di questo ancora abbiamo bisogno. Nel nostro piccolo, uno degli sforzi che abbiamo cercato di fare durante il periodo del confinamento è di continuare a battere su questo tasto, e quindi il ciclo di trasmissioni organizzato da Lost, che adesso probabilmente riuscirà a diventare un libro, il cercare di tessere dei contatti, trovare quello che ci serve per alimentare la critica, per sapere cosa accade. Su tutti i piani, sul piano appunto della gestione da parte dei poteri delle nostre vite, come sul piano dei rapporti internazionali, sapere cosa accade in giro per il mondo è fondamentale, proprio perché la situazione, io ci batto su, oramai è una specie di disco rotto il mio, la situazione in Italia è così grave e depressiva sul piano delle lotte che non guardare al di là dei confini italiani rischia di distorcere l'immagine e la percezione stessa. Noi sappiamo troppo poco di quello che sta accadendo e continua ad accadere negli Stati Uniti. Ci arrivano dei frammenti, ma le cose che ci interessano dobbiamo andarle a cercare, dobbiamo ristabilire quei contatti che sono poi quelli di chi fa le cose, di chi è nelle strade, di chi sperimenta percorsi diversi e non quello che passa l'informazione mainstream o anche quello sminuzzamento dell'informazione che passa attraverso i social. Ecco, io volevo riprendere quei due interventi e dire che si cercherà di andare avanti anche in termini pratici su questo piano, per dire finito questo incontro abbiamo da parlare con Andrea di un piccolo progetto su immigrazione e salute mentale che sarà portato avanti insieme dall'ambulatorio medico popolare e dalla Calusca e da una compagna che ha fatto una bella ricerca, insomma cose piccole chiaramente, ma è quello che abbiamo sempre fatto e continuiamo a cercare di fare. Altre cose un po' non siamo capaci, un po' non servono, un po' sono fuori dalla nostra portata. Altre cose intendo grandi cordate che in realtà rientrano nello spettacolo della politica. Ecco. Niente, io volevo solo riallacciarmi molto velocemente perché l'ora è tarda a quanto aveva appena recentemente detto Roberto. Allora, ormai penso che sia chiaro a tutti lo spillover che cos'è, è quel salto che un virus da un animale va a passare a un uomo. Bene, poi dopo qui il prodotto che ci hanno smerciato si chiama Covid-19. Il problema è che questo Covid-19 è andato a inserirsi in una crisi di questo modo di produzione che risale, l'ultima pesante, al 2008 e in modo inarrestabile ha visto un progredire di questa crisi a livello mondiale. Quindi, quando Roberto dice che vogliamo tenere d'occhio il mondo, cioè la questione internazionale, stiamo cercando di preparare un po' a fatica qualche cosa per andare a parlare di cosa sta succedendo, cosa potrà avvenire, cioè parlare anche del futuro, non solo del passato, e parliamo di quello che è il cuore della bestia, cioè gli Stati Uniti. Stiamo preparando a fatica, penso che riusciremo a preparare qualcosa dove poi chiaramente vi sarà comunicato. Per quanto riguarda tutti gli altri territori, vi sono una serie di considerazioni da fare. Una è che tutti gli interventi dettati da questa epidemia, che i vari governi, e in modo particolare i governi della stragrande maggior parte di quelle nazioni che sono seduti da una parte del tavolo dove si mangia, perché ci sono tutta una serie di altri paesi o periferie dove anche i dati non conosciamo, sempre detto che i dati che qui forniscano siano quelli veri. Bene, tu questo intervento può anche far pensare, insomma in poche parole, questa pioggia di denaro che va dal reddito di cittadinanza a finanziare le piccole imprese, eccetera, eccetera, in tutti i paesi ha visto muoversi con centinaia di miliardi, non è un processo che possa durare all'infinito, tenendo poi presente che alla fine i conti si dovranno fare e qualcuno li dovrà pagare. Qualsivolta questo qualcuno non sarà nelle periferie sulle quali oggi, da una vita ricade, se si cerca di far non solo ricadere, ma si cerca di mandare là la contraddizione più profonda in quella che prima Visconti giustamente è andato a chiamare come la guerra permanente. Quindi non stiamo assistito a qualche cosa paragonabile a un altro conflitto mondiale, ma è una guerra permanente, la quale però produce anche tutta quella serie di rivolte e manifestazioni che poco fino alla fine del 2019 aveva visto interessare paesi dall'Iraq all'Iran, alla Spagna, la Parigi, la Francia, quindi una connotazione che ormai non vedeva e vede diminuire le differenze tra paesi dominati e paesi dominanti. Chiaramente la strada da fare è lunghissima, però credo che lo sforzo, e lo dico qui in un luogo dove la memoria è importante, perché sennò non ci sarebbe l'archivio Primo Moroni a conservare le carte, ma noi dobbiamo anche cercare di sforzarci per intravedere il futuro e per cercare di dire come potrebbe essere questa direzione. Sì, un elemento, funziona. Un elemento dell'economia di guerra che prima non avevo citato, cioè la militarizzazione del territorio. Nel 2003 uscì un documento della NATO intitolato, vabbè adesso non è importante, comunque prevedeva per il 2020, cioè per quest'anno, 2003, 17 anni fa, prevedeva scoppio di rivolte all'interno delle grandi città, grandi metropoli mondiali, e quindi sottolineava la necessità di prepararsi dal punto di vista della NATO, quindi dal punto di vista militare, a queste rivolte. Quindi hanno messo poi in pratica ovviamente questo documento con una progressiva militarizzazione che anche nelle nostre città abbiamo visto, insomma, poi durante il periodo del Covid chiaramente c'è stata un'accelerazione anche in questo campo. Quindi quello che si pone come domanda è è in corso una svolta autoritaria a livello, diciamo, delle nazioni occidentali, quella che conosciamo come capitalismo sviluppato? Sì, diciamo, c'è stato questa esautorazione del Parlamento di cui parlava prima Ivo, a cui ha fatto da contrappeso una specie di rivolta delle governatori, dei governatori regionali che hanno diciamo fatto un po' a modo loro nelle varie regioni, no? Quindi c'è anche una differenziazione sui territori, che non è, il Veneto non è la Lombardia, cioè nel Veneto la sanità di territorio ha retto di più, per esempio. Quindi c'è una centralizzazione e una forma autoritaria, però ci sono anche queste forme dispersive del sistema. Per esempio negli Stati Uniti si è visto anche questo, cioè i vari stati hanno fatto un po' come hanno voluto, cioè l'ipotesi di Trump all'inizio, che era fra virgolette di darwinismo sociale, come anche quella di Bolsonaro in Brasile, cioè sopravvivono i più forti, punto, cioè, e quindi è una buona occasione per sfoltire anche, diciamo, la massa della forza lavoro inutile, e insomma poi ha avuto applicazione per esempio nei confronti degli afroamericani, cioè ci sono dei dati anche nel libro che gli afroamericani, oltretutto privi di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, hanno livelli di decessi molto più elevati di quella che è la popolazione bianca o i latinos anche. Però cos'è successo? Negli Stati Uniti adesso c'è una guerra civile strisciante, secondo me, ce lo diceva già Loren Goldner quando venne qui un po' di anni fa, che prevedeva questa cosa. E agli afroamericani si sono aggiunti anche molti componenti, diciamo, bianchi o meticci, come latinos, eccetera. Quindi da una questione razziale stiamo passando a una forma di lotta di classe. Quindi quello che avviene negli Stati Uniti, come diceva anche prima Roberto, è da tenere molto in considerazione. Da seguire. Sul rapporto NATO siamo ferratissimi. Abbiamo scritto a suo tempo una cosa che è risultata particolarmente azzeccata, quindi ce ne hanno date, ma gliene abbiamo dette. A parte gli scherzi, e quel testo che si intitola Eserciti nelle strade, che è appunto un commentario a questo rapporto, è ancora disponibile in rete, lo si trova facilmente. Può valer la pena rileggerlo e integrarlo alla luce di quanto sta avvenendo sia negli Stati Uniti ma anche in Francia, perché le incrociare quelle analisi con la questione del nemico interno, la gestione delle popolazioni eccedenti, insomma da una serie di idee significativamente aderenti, secondo me, alla dinamica delle situazioni che si stanno producendo. Così come nel libro si fa riferimento ad alcuni studi a livello mondiale relativi alla dinamica delle lotte, delle rivolte, dei contrasti sociali sull'arco degli ultimi 20 anni almeno, che sono anch'essi, anche questi sono studi che si trovano in rete, sono particolarmente significativi, sono anch'essi parte di quell'immagine del mondo che troppo spesso noi non riusciamo, o comunque fatichiamo a vedere, ficcati come siamo nella melma dei giorni nostri. Vai. Solo note a margine, perché il corpo, la sostanza del problema è anche stata evidenziata. Uno, economia di guerra, mamma mia. Il primo dato essenziale dell'economia di guerra è che la guerra la stiamo finanziando noi con la con le tasse, con i tagli sulla sanità, con i tassi sulla previdenza, con tutto quello che viene a mancare nella gestione della socialità. Noi la finanziamo così, il capitalismo se la finanzia da sé, con una concentrazione sempre più evidente del capitale nelle mani di strutture e di multinazionali ed imprese che possono investire in alta tecnologia, che si appoggia inevitabilmente su una ricerca che è settorializzata e che è indirizzata alla guerra, non certo alla sanità, non certo allo sviluppo umano, che crea un esercito in realtà di progressiva disoccupazione dei lavoratori intellettuali e di tutti quelli che hanno svolto delle mansioni di direzione o di comunque intermedie nella società, che si trovano a non essere supportati, semplicemente non ce n'è più bisogno, così come non c'è più bisogno di lavori non specializzati, così come non c'è più bisogno di troppa gente al mondo. Non è un problema. L'impoverimento di grandi masse è un fatto che necessariamente di per sé, pandemia o non pandemia, porta all'eliminazione fisica di una parte dell'umanità. Nota a margine invece sulla questione della militarizzazione, ma l'avete notato che c'è l'esercito per le strade? Quando mai prima si vedevano tante camionette dell'esercito, tanti furgoni dell'esercito circolare liberamente per le nostre strade? Ho fatto una breve vacanza al sud, molto peggio, Roma e Napoli sono piene, svolti l'angolo e c'è un automezzo dell'esercito, non della polizia. Non credo che abbia una funzione reale adesso, se non una preparazione scenografica e probabilmente anche una preparazione in termini tecnici, che non ho più pallida idea di dove devo andare a parare. Altra nota a margine, ci dimentichiamo, non abbiamo notato che gli scienziati hanno collaborato in questa fase molto più di prima, hanno travalicato le barriere, non solo pubblicando, ma anche con rapporti diretti, anche con appelli diretti. Certamente non sono la fascia della popolazione più politicamente avanzata, ma di sicuro si sono mossi su un piano di solidarietà, di critica e di avanzamento di richieste e di proposte di collaborazione, che sono tutte stoppate da quella che è poi la direzione della ricerca e la direzione delle multinazionali del farmaco, perché si scatenerà tra poco la guerra dei brevetti. E credo che sia un punto sul quale bisognerà in tutti i casi attrezzarsi per sapere come prenderli questi vaccini. Vaccini per chi, per quanti, per come, a chi li diamo gratis, chi non li avrà affatto. Cioè non è una materia, secondo me, che possiamo dimenticare. Ne possiamo dimenticare sul piano internazionale, che non è che le informazioni non arrivano, forse non arrivano dagli Stati Uniti, ma da altri paesi invece, dove la gente di fatto deve organizzarsi dalla base per contrastare i più primitivi effetti del Covid, lo fa, cerca anche di farlo sapere. Siamo noi che non ce ne occupiamo affatto. Non lascio perdere qualsiasi altro. Volevo dire, serve, o almeno a me manca, di tutte le cose dette stasera, una sintesi. Vale a dire, come vogliamo passare dal piano della critica del modo di manifestarsi del capitalismo a un piano purtroppo molto, molto indietro, che è quello dell'organizzazione di un progetto di effettivamente diverso, quello che ci manca. Cioè, mentre al capitale di sicuro un progetto non manca, perché sono da anni che sviluppano teorie sul cambiamento della struttura economica, certo non del rapporto di lavoro, va da sé che il rapporto di lavoro ne consegue che il rapporto di lavoro va nel senso della svalorizzazione e della deterioramento delle condizioni di lavoro, ma un piano di revisione e di ridisegno dell'intera struttura economica c'è non solo negli Stati Uniti, c'è da noi, c'è sulla questione non solo del petrolio e delle fonti dal petrolio alle fonti alternative, ma delle manovre, per esempio nel Mediterraneo, sui cavi sottomarini, quelli che portano l'informazione, ed è su questo che si preparano altri conflitti, forse altre guerre. Da questo piano scendere al come sviluppare una visione politica, è ovvio che il passo sembra grande, ma il passo non è in realtà tanto grande. Si tratta di maturare una prospettiva, di maturare un progetto che purtroppo da parte nostra manca. Ecco, ci hai messo di cattivo umore. Va bene, direi che possiamo concludere. Diffonderemo l'informazione sulle prossime iniziative come facciamo sempre. Grazie a tutti per la partecipazione. Settimana prossima non si parlerà più del momento presente, ma ci sarà la presentazione invece di un libro di un compagno, Davide Ratti, su un eccidio avvenuto a Modena nel 20, considera la repressione poliziesca e militare durante il Biennio Rosso. Si intitola Stragi di Stato nel Biennio Rosso. Poi successivamente riprenderemo il filo del discorso continuato anche stasera. Saluto a tutti. Ciao, no, io volevo dirvi che questo dibattito di stasera, domani, lo potete riascoltarvelo sul Cox 18 Streaming, come tutte le altre presentazioni dei libri in tema che abbiamo fatto in questi giorni.